Italia in controluce. Perché va a iniziare la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 in due edizioni che tutti i giorni vi racconta la società italiana, la cronaca, la politica, il costume. Due edizioni quotidiane, 6.30, 13.30, che vi raccontano in sostanza l'Italia. In studio vi parla Daniele Biacchessi. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Ceci, il nostro focus sulla scuola. Scuola in controluce. Una volta c'erano i giornali scolastici, in realtà ci sono ancora, ma oggi molte scuole, almeno un'ottantina, li hanno sostituiti o affiancati a delle web radio, tanto che già da 6 anni ad Oggione, in provincia di Lecco, viene organizzata una festa delle radio scolastiche, festa che comincia proprio oggi e proseguirà fino a domenica. Ad organizzarla il gruppo Ragazzi e Cinema. Il presidente Guido Milani ci spiega perché la radio scolastica può trasformarsi in un importante strumento didattico, come hanno capito molti insegnanti. Perché anche noi stessi abbiamo scoperto, facendo radio, che è uno strumento importante per favorire la comunicazione e la capacità di dialogo tra gli studenti e per farli appassionare anche alle materie didattiche. È molto più appassionante parlare di storia in radio, viene molta più voglia di studiare, di imparare, perché si è stimolati, perché si ha voglia di raccontarlo davanti ad un microfono. Per cui bisogna trovare, secondo me, e secondo tanti insegnanti che la pensano evidentemente in questo modo, degli strumenti nuovi, accattivanti, per stimolare nei ragazzi la voglia di imparare. La radio in questo è importante. Davvero la scuola se le sta inventando tutte, per rendere il tutto più appetibile. Ma insomma, la scuola, le associazioni, le realtà in tutta Italia che scelgono di coinvolgere attivamente i ragazzi. Ragazzi non devono essere spettatori passivi della radio, della televisione, dei mezzi multimediali, ma bisogna dar loro la possibilità di essere protagonisti attivi, e questo penso sia quello che accomuna tutte le esperienze di radio scolastica, ma comunque di multimedialità a contatto con i ragazzi. Che cosa sentiamo sulle radio scolastiche? C'è un filo conduttore? Ci sono dei temi che accomunano un po' le radio scolastiche? I ragazzi alla radio parlano di tutto, si parla di argomenti legati ovviamente alla didattica, per cui di storia, di ricerche, di interventi e di interviste a personaggi legati alla didattica, ma si parla anche di musica, di spettacolo, di quello che ai ragazzi piace, di sport, e poi di temi legati proprio all'universo giovanile. I ragazzi parlano di bullismo, parlano di razzismo, parlano di argomenti che insomma in qualche modo li hanno toccati, li hanno segnati. Lo scorso anno, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, abbiamo indetto un concorso per la nostra festa delle radio dedicato a questo tema, ed è stato bellissimo vedere come i ragazzi hanno affrontato il tema dei 150 anni dell'Unità d'Italia in maniera nuova, moderna, simpatica, allegra. Addirittura io mi ricordo una trasmissione preparata dagli studenti in cui i ragazzi hanno parlato con il linguaggio rap di questo argomento. Hanno fatto una trasmissione veramente bella in cui in chiave rap parlavano dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Spettacolare. Benvenuti ai Piaceri della Lettura dagli studi di Is It Gone Air, da Giacomo, Umberto, Domenico. E siamo alla radio Is It Gone Air, siamo Simone Clede e Alessandro Clemente, e vi parleremo della Prima Guerra Mondiale dal punto di vista degli studenti. E questa è Is It Go On Air, la web radio dell'ISIT di Gorizia. Se ne occupa il prof di informatica Gaetano Strano. Praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo un attimino trovato una location all'interno della scuola e abbiamo realizzato uno studio di registrazione. Era l'ex appartamento del custode. E chi va a registrare questi interventi? I ragazzi quando hanno in mente qualcosa, oppure sono coordinati da voi insegnanti? Sì, no, siamo sempre noi insegnanti che facciamo un lavoro, diciamo, di supervisione. I ragazzi magari lanciano le loro idee e noi gli diamo lo spazio all'interno di questa web radio. Quello che una volta forse era il giornale d'istituto, adesso esatto, si è evoluto. Infatti. Solo che diciamo la radio è sicuramente uno strumento sicuramente più efficace, no? E per loro comporta, diciamo, diversi vantaggi, perché quando lavorano insieme possono effettivamente confrontarsi, possono scegliere cosa effettivamente trattare, quindi c'è proprio questo lavoro tipico di gruppo che poi anche, diciamo, un domani nel mondo lavorativo li può effettivamente servire. Poi tra l'altro il fatto che loro appunto si abituano a parlare al microfono, cominciano ad acquisire una certa, diciamo, sicurezza ed imparano così anche a gestire la propria emotività. Va ora in onda dalla scuola Falcone Borsellino. Buon ascolto. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di radiocreativa.net, questa è la voce di Lucia Abbinante, oggi siete in onda martedì e parliamo di beni confiscati. Un modo anche per fare educazione civica e parlare di mafia è Radio Creativa, un network nato a Bari, come ci racconta Gabriella Grassi. Radio Creativa è un progetto del Comune di Bari realizzato dall'Associazione Culturale Creativa, ormai portato avanti da 7 anni, è cominciato nel quartiere di Bari Vecchia. Per le strade, soltanto negli istituti medie del quartiere, fino a raggiungere oggi tutte le scuole medie inferiori di Bari. L'argomento principale è l'educazione alla legalità e è antimafia, e attraverso dei moduli noi arriviamo nelle scuole e trattiamo diversi argomenti, quali le mafie internazionali, i beni confiscati, le ecomafie e le biografie dei personaggi che lottano quotidianamente per la legalità e contro la mafia. Insomma, un modo per avvicinare i ragazzi a questo tema così importante senza, diciamo, lezioni frontali, libri che magari in qualche modo possono spaventare. No, assolutamente no, anzi, sono lezioni del tutto alternative ed innovative. Infatti noi utilizziamo il mezzo web radiofonico, quindi attraverso un computer e un microfono rendiamo i ragazzi protagonisti, cerchiamo di renderli autosufficienti in modo tale che possano improvvisare il loro argomenti, proprio perché sono un frutto di un lavoro in classe svolto da operatori specializzati. Che faccia fanno i ragazzi quando proponete loro comunque di parlare in radio, di ascoltare anche la radio, insomma, i vostri contenuti? Diciamo che inizialmente sono abbastanza imbarazzati, perché l'impatto con il microfono, soprattutto per i più timidi, non è positivo, però poi pian piano imparano a divertirsi e soprattutto capiscono che è un mezzo attraverso il quale possono esprimersi liberamente, senza essere giudicati, e soprattutto possono esprimere anche la loro creatività. Ciao a tutti, siamo di Radio Rinascita e siamo del gruppo Curiosità. Questo gruppo è composto da me, che sono Simone, e Daniele. Non me lo ricordavo, scusate. A Milano invece le web radio sono circa 8, riunite nel network Raga Radio dell'Agenzia dei Ragazzi. Se ne occupa Valerio Rossi. È facile parlare della scuola e non si sente mai la scuola parlare. E questa è secondo me la cosa più interessante, far uscire la scuola dalle proprie mura. Quando i ragazzi raccontano un po' delle loro attività che fanno con la propria insegnante, la lettura di un libro o quel collante che utilizzano tra la loro conoscenza extrascolastica e la musica, che la utilizzano un po', non so, la musica più bella, la musica che ascoltano volentieri. E poi è un modo anche forse per stare insieme, lavorare insieme, no? Sì, soprattutto questo, soprattutto condividere e scoprire che, per esempio, la tua scelta di una canzone, anche se non è condivisa dagli altri, devi mediare molto e spiegare perché non è condivisa. Non è così semplice dire mi piace perché è bella perché mi piace, ma spiegami un po' a che cosa ti serve, perché è bella. Bisogna articolare il pensiero e quindi costringere i ragazzi a pensare. Non solo, ma anche quando devono fare ogni trasmissione, articolarlo con un copione, capire che esiste una scaletta, come si fa un tema, che quello che si dice non deve essere ripetitivo, ma deve essere costruttivo, che abbia dei momenti di tensione e di ascolto importante, e quindi se le cose le vuoi dire non puoi fare una serie di inflessioni dialettali o una punteggiatura di vocali perché non ti viene la parola. Sarebbe bello che ogni ragazzo imparasse questo e soprattutto dare quel tono prosodico a quello che vuoi dire, assumere un ruolo mentre parli. Il Italia in Controluce seconda edizione, questa come tutte le altre puntate trovate su podcast radio24.it. Siamo come sempre raggiungibili via Facebook, pagina gruppo, Twitter, blog e attraverso la nostra mail controluce@radio24.it. Torniamo lunedì alle 6:30 su Radio 24.